Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock. Rock FM. Il test attitudinale di quest'oggi verteva sul binomio grandi rockstar e Italia. Nello specifico si parlava di Eddie Vedder e vi chiedevamo quale delle tre ipotesi era giusta, quale accadimento lega Eddie Vedder all'Italia. La soluzione numero uno, Freak, se non ricordo male, parlava di una catena di spaghetterie aperte nel 1992, 15 spaghetterie in America aperte da Eddie Vedder che si chiamano Spaghettatissimi. Esistono? Ahimè. Ahi no. Ai noi, chi ha scelto questa prima ipotesi ha sbagliato. E passiamo allora a pie pari alla seconda possibilità. Eddie Vedder si sposa con la storica fidanzata a Roma, in Campidoglio. È vera? Beh, questa è già più vicina alla realtà, perché questa è giusta. Complimenti, felicitazioni a Eddie Vedder e alla bella Beth Liebing. Si sposarono nello specifico il 3 giugno del 1994, ma divorziarono nel settembre del 2000. Sei anni vissuti, è la crisi, speriamo. Di solito si dice che è la crisi del sesto anno. No, del sesto. Il sesto è andato bene, poi il settimo è andato malissimo. È stato quello decisivo. Eddie Vedder non ha nessun tatuaggio raffigurante il Colosseo sul polpaccio destro, come ipotizzava la testa domanda. Almeno a noi non risulta. No, ci risulta addirittura che sul polpaccio destro è tatuato il logo di un'associazione ambientalista americana. Ulteriore, ennesima riprova del supporto del cantante dei Pearl Jam alle associazioni ambientaliste. Bravo Eddie! Bravissimo Eddie, e la sua sensibilità eco mi aiuti. Eco solidale. Ci sia di riferimento. Affinché ci sia di riferimento, molto giusto, un esempio da seguire. Bel tatuaggetto del Colosseo sul polpaccio. Io se ne è accorto, io non volevo mostrarlo. Che bello! Sa, sono per le soluzioni storiche. I wanna see this. di Vedder che fa il romantico in questa Yellow Ledbetter, regata per Jam, tributato di Vedder nel test di quest'oggi. 8 e 36 minuti primi, andiamo a fare qualche saluto al 335 100 77 77. In tanti, anche in questa undicesima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll, un paio di richieste di strombazzate. Sto accompagnando la mia ragazza a un esame, spero abbia con sé la patente da vero rocker. È impossibile che ce l'abbia perché non esiste ancora, esisterà il 30 settembre, ve l'abbiamo detto. Comunque con la strombazzata sta precisa. Dottor Migo, la giornata comincia male, lunedì piove, devo andare a lavoro, pensateci voi a migliorarla, magari con un colpo di trombetta. Vedete, i nostri radioascoltatori si accontentano. È questo il giusto modo per affrontare la giornata. Headbangers da Prato, Luca 77. Ho passato l'agosto in città ad attendere la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Poi 2 settimane di vacanza a cercare la frequenza vestito da uomo latta. Ora sono tornato, primo giorno di lavoro con inizio alle 8, però è dalle 7 che vi ascolto in macchina. Che figata! Bentornato Luca 77. Tra 5 minuti inizio la mia giornata, arte in classe terza, dobbiamo costruire il plastico di una grotta preistorica con Rock FM in sottofondo. Mandaci il plastico dopo, mi raccomando. Un ultimo, ma con la patente, se mi beccano con 0,8 di sangue nell'alcol, logicamente mi fanno ripartire con le dovute scuse o no? No, bisogna sperimentarlo, ragazzi. Io non fatemi dire queste cose per radio, dai. Già è difficile. Vi abbiamo svegliato alle 7, alle 7 e mezza, alle 8. Qui vi svegliamo sempre fino alle 9. Perché anche se piove, ascoltando Pane, Burro, Rock and Roll, basta guardare là e vedrete una luce. Esatto. È certo che la vedo la luce. Vedo la luce della banda. Quella luce là. Dan Aykroyd sempre a fare... Hai capito? Jesus H. God Christ, I have seen the light. Se anche voi riuscite a vedere quella luce, è il momento che qui a Pane, Burro, Rock and Roll chiamiamo Airband. Imbracciate il vostro strumento virtuale e suonatevela insieme a noi. Anche quest'oggi Spadino ci seleziona un classicerrimo. Si diventa tutti i Black Sabbath. Scegliete chi volete essere. Io quasi quasi faccio Ozzy stamattina, sì. Paranoid. Yeah. rocker, non ne puoi più della routine quotidiana? Hai bisogno di mettere freno alla tua irruenza? Non ne puoi proprio più del tuo vicino che impazzisce per Nino D'Angelo? All'Eleonora Duse troverai pace, relax e quel pizzico di comprensione che ti manca. Ciao amici, sono Roberto Fricantoni e anch'io, quando sento d'aver bisogno di un po' d'affetto, vado all'Eleonora Duse. All'Eleonora Duse troverai un team di specialisti che sapranno ascoltarti e in breve tempo diventeranno i tuoi amichetti del cuore. Oh, ragazzi, amichetti del cuore, però comincia a girarmi la testa. Amici, non è che per caso avete sbagliato dose? Eleonora Duse, metti un'oasi nel tuo deserto. Ma mi sento strano, no? No, non è un cambio di stagione. Io sto per svenire. Silence, come crashing. pane, burro e rock and roll, in voce l'Ariele, al mixer Spadino, in voce Roberto Friccantoni, ma diciamo un saluto, una redazione che lavora alacremente giorno per giorno per tentare di dare un contenuto a queste due ore gettate altrimenti alle ortiche. Esatto, vorrei dare un suono a questo alacremente, no, non a questa suono avverbio di alacremente le pre... A volte lei, maestro, è veramente surreale. Andrei, grazie alla segnalazione della nostra redazione, a leggere un'ansia del reparto. Ha detto ansia. Le è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo. Leggiamo un'ansia un in lapsus, ansia, grazie alla redazione. Un lapsus freudiano. E ci trasferiamo a Mosca. Accidenti, che freddo! Buone notizie per i radioascoltatori che non hanno niente da fare questa sera. In che senso, DJ Ariel? Che si potrebbe prendere esempio da questo signore che a Mosca... Ha organizzato una festa a Mosca? Guarda, vado a leggerle la notizia. Sì, cosa ha fatto questo signore di Mosca? Mi dica! Ci troviamo a Rainzan, a est di Mosca. Ah, questo mi tranquillizza. Un operaio è stato arrestato dalla polizia per aver rubato un ponte. Per aver rubato, scusi? Un ponte, ma un non ponte. Un ponte, ma non quello ortodonzistico, un ponte vero, quello che passa sopra un fiume. Ma un ponte piccolo? Credo di no. L'uomo, 45 anni, ha fatto sparire nel giro di una notte un ponte con una campata di 5 metri. Di 5 metri alla faccia del ponticello. Un fiume. Secondo gli investigatori, l'operaio avrebbe usato il suo camion da lavoro per rimuovere l'infrastruttura, tagliarla e, sentite un po', venderla come ferraglia. Un genio. Ma dai, veramente un genio. Termini, poi le termino faccio una domanda. Concludendo che la polizia locale ha comunicato e ha definito ironicamente il furto più grosso dell'anno. Ruba un ponte e lo rivende come ferraglia. Grande, grande. Ma anche la polizia è stata molto spiritosa. La polizia solitamente non molto è seria, sì, molto impeccabile. Sempre è stata qui molto ironica. Il furto più grosso dell'anno. Ma senta, con nello smontare questo ponte, sì, l'avrà tagliato con un tagliaferro elettrico. Avrà fatto rumore, il cosiddetto casino nella notte. Infatti l'hanno beccato. Per questo forse che, sì, l'hanno beccato. Voi là fuori non andate a rubare nessun ponte, poi rivenderlo come ferraglia. Che ma ragazzi, ma gli abitanti, questi poveretti che dovevano passare sul ponte di 5 metri tutti i giorni, come hanno fatto? Ma come hanno fatto poi? Insomma, non si può. Strano, non si può. Ma vero. Strano, no, ma allora, vero. Tiriamo le orecchie a questo signore di 45 anni che ha tolto un mezzo di comunicazione importantissimo per la città di Rainzan, ad est di Mosca. Arridategli il ponte. Gli è serviva. Dracula. Che roba, ragazzi. Blind Faith. Can't find my way home. Voi sbronzi alle 8:52 minuti primi che non sapete tornare a casa, questo è per voi. Pane, burro e rock and roll ed è subito amore. Un saluto a Fabio, importante, prezioso per Rock FM. Alle 8:53 minuti primi bisogna fare un piccolo esame di coscienza. Noi siamo qui tanto a passare il tempo, no? Mettiamo su della buona musica e poi non ci accorgiamo che in realtà potremmo creare grossi problemi agli ascoltatori più sensibili sparsi là fuori, come per esempio Emiliano da Firenze, che al 335-100-7777 mi scrive: ah, la canzone dell'amore. Ora ho proprio voglia di baciare qualcuno, ma sono solo in casa con la gatta. Che faccio? Vado? No, Emiliano, aspetta a baciare la gatta, perché potrebbe andare a finire molto male. Ripigliati con gli Who, che è meglio. Ultimo brano in scaletta per quest'oggi. È stata una grande puntata, la numero 11, lunedì 17 di settembre, che tra pochi minuti andrà in archivio su RadioRockFM.com. Non si poteva chiudere in maniera migliore, se non con questa Bubble Relay! Questa è roba che dà la carica, ragazzi, eh? Che voi, macchina, smettetela di barbottare contro quello lì davanti che non sa guidare. Fregatevene, alzate il volume a cannella e godetevi questa canzone meravigliosa. Ve la offre Pane, Burro e Rock and Roll. Tranquilli, è come negli hotel la marmellatina che potete portarvi a casa. È gratis, via. Nessuno si arrabbia. I'm 8 e 57 minuti primi, anche 8 e 58, è andata, dai, ci siamo giocati anche questo lunedì 17 di settembre. Uè, uè, si chiude con gli U, non potevamo avere veramente chiusura migliore. Vi lasciamo con Marco Garavelli, ricordiamo la notizia di quest'oggi. La Pane, Burro e Rock'n'Roll è ufficiale, domenica 30 settembre a Milano, Cascina Monlue, presenteremo la patente Davvero Rocker. Esiste, è vera, ci sarà e la daremo solo a chi se lo merita. Qualcuno via sms, Enrico scriveva, ma chi non può venire il 30 a Milano? Ragazzi, ve la posso dire alla livornese? Tipo puppa, cosa posso farci? Tornerà un'altra volta. No, il 30 è la prima. È la fine, ragazzi. Andiamo di sigla che è meglio. Poi, vabbè, una volta presentata, poi la daremo anche in altre occasioni. Anche all'Alcatraz, perché no? Alla festa di Rock FM. Ma il 30 settembre è la prima. Pane, burro e rock and roll. Speriamo, via. La tua colazione. Ricordo che suoneranno anche gli Schiantos. Pane, burro e rock and roll. Insomma, ufficialmente il primo raduno di Pane, burro e rock and roll. Domenica 30 settembre. Via. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Io. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Come annunciato, cediamo il microfono a Marco Garavelli. Buona giornata, Marco. A te e a tutti. Hai visto, abbiamo anche fatto smettere di piovere. Questo che ci venga retribuita questa cosa. Anche tu stamattina in tangenziale autostrada non si vedeva. In tangenziale era dura stamattina. Era dura. Poi io ho sto vizietto che mi piace prendere le pozzanghere un po'. Aia. Non per bagnare la gente, però mi piace solo prendere le pozzanghere e vedere che mi viene l'acqua in faccia. Ma resiste poi il motore? Fa dei rumori strani, se devo essere onesto, ma per adesso tiene, speriamo. Hai sentito la notizia di oggi? Ho sentito. C'è la patente Davvero Rocker. Bene. Adesso pensiamo anche alla patente Davvero Rocker honoris causa. Per esempio a te non daremo quella normale, o voi quella normale, tu. No, vedi tu. Non te ne frega niente, dagli occhi te lo leggo. Copie numerate del tipo 1000 e poi stop, certo, chi c'è c'è chi... Da questo punto di vista, infatti, non sapevamo se partire la numerazione da 0, in maniera molto provinciale come siamo noi, o da 100, o è da 1000. È una mille. Special edition, insomma. Tu cosa faresti? Da dove partiresti a contare? Da 1000 per far che uno la prenda e dice, cazzo, già 1000 ne hanno fatto. Esatto. Mi piace questa. Ci penseremo, caro Garavelli, intanto ci si risente domani alle 7 precise qua su Rock FM, ne è vero? Eh sì.